sera chi è? Marco. Ah, hai ragione che è sabato. Sabato sera non lavorate voi? No, noi no. Assolutamente no. Meglio così, almeno ti riposi. Non basta un curo che mi hanno fatto stamane. Ancora ne vuole. No, ci mancherebbe da tanto, ben sentito. Stavo passando qua, era acceso, stavo passando per altre cose. E ia, a più tardi, dai, forse, se non esco, forse esco. Ciao a tu. Stai andando? Cazzo, mi ha vento, e tant'enna che galleggiere. Sì, il vento che ha fatto stanotte, ciucciù. Adesso se ne vuole l'antenna, me. Invece non se ne vola mai, maledizione. Ancora anche la mia già l'ho ancorata bene. Già va abbastanza, va. E me l'ha fatta muovere questa notte. Sì, sì, infatti dopo la pioggia di ieri, quando era ieri, un po' di vento, un bel po' di vento. Però non sapevo se era maestrale, probabilmente maestrale, non ho controllato nemmeno la direzione. Vento freddo, Com'è, Anto? Vento freddo, Ehi, allora è maestrale, è roba dal nord, nord-ovest. Ehi, nessuno c'è. No, non ho fatto nessuno. Ho fatto un po' di passaggi, un po' laborioso. Il bopping non me l'ha, quello che mi doveva fare non me l'ha fatto perché non ha trovato il capo. Ah, così se c'è qualche benefattore che ci riesce. Non ho capito tu. Che capo? Capo per farlo. Ma l'88 ti alludi a quello? Credevo che avesse risolto tu. Assolutamente no. Adesso vediamo se c'è qualcuno che me lo fa, se no già rimane in chivi, e cosa devo fare? No, io avevo capito che ti aveva, come si chiama, che Gianni ti aveva già trovato chi te lo faceva. E sti cavi sono un casino però, perché in base al sistema operativo che hai, o funzionano i driver o non funzionano, è una paranoia, Anto. Infatti, quelle a tasti invece, te le programmi direttamente dalla tastiera, tanto per il PMR è semplice, metti solo la frequenza e e non metti altro, non metti spostamento, ponti, eccetera. Però quelli senza tastiera è una rogna, vabbè. Capo, speravo che chi me lo doveva fare, speravo che... non trova il capo, ma lo trova proprio, è il capo adatto per quello, da parecchi lì. Vabbè, ho asciuli, e a questo gattapiglia le pulizie dal monte di Roseto, ma ho lasciato lì da... C'hai un po' di scarichette, per pochi secondi non sei uscito nemmeno di radio. Controlla un po' la microfonia, eccetera. E a chi so che vende, invece che non ho premuto bene. So che sempre vende, capito? Ma è presto, cavolo, sono le 4:20. È troppo presto, ancora non c'è un'anima, sono tutti dormiti. E io pure prima ero, non dico addormentato, ma rilassato. Io magari tu dormi, Marco. Anto, diciamo che non è molto, però io ho problemi di addormentamento. Dormo da molto, molto tardi, di notte. E quindi poi di conseguenza la mattina quasi me la brucio. Io sono stanco, cioè, sono da 17 in piedi oggi, un po' più tardi, ma già è bastato, là. Cazzo, oggi abbiamo segnato un bel. Abbiamo lavorato parecchio. Ehi, sai così, avranno sentito il freddo che è arrivato un po' ieri, no? Perché c'erano 11 gradi di sera. Probabilmente di notte è sceso molto. e la gente voleva le bombole per le stufe, sai, meglio averla sabato mattina. Oh, qua quando manca il gas manca sempre o il sabato sera o domenica, quando devi cucinare. È proprio una cosa matematica, calcolata, è una cosa allucinante. Marco, mi senti? Sì, chi è? Claudio, ciao. Ciao anche Antonio. Sto provando un intake col microfono normale, com'è? Ciao Claudio, allora, la modulazione non è proprio pulita, però la voglio ascoltare meglio alzando il volume e avvicinando l'orecchio. Prova un po'. Ho fatto le prove stamattina con Roberto, mi ha detto che era fantastica. Lo sai com'è lui. Microfono normale, originale intake. Sì, perdonami Claudio, c'avevo la NL inserito, la NL ti falsava la modulazione, la sto ascoltando da vicino, diciamo è una timbrica, vabbè, diversa dalla tua, però non è male, non è niente male. Antonio, com'è per te? Per me va benissimo, va. Che apparecchio è, Claudio? È un Intake Base col microfono normale, originale, col down e up, insomma, così dai. Sono un palmo dal microfono, mic gain è al massimo. Io mi ascolto e non è male, però le cuffie sfasa sempre. Quindi mi confermate, rumori sentite, inneschi, bim bum ba, niente, tutto a posto? Assolutamente no, Cla, va benissimo. È una modulazione normale, di un apparecchio normale, e va bene, non è male, va bene. Ok, va bene, quindi il microfono normale ce l'abbiamo, adesso poi lunedì devo prendere un altro MB+5 e le abbiniamo un altro MB+5, così tutti hanno le MB+5 e nessuno è scontento. Ok, come mai siete in radio a quest'ora? Io mi sono entrato adesso in stanza, ho acceso la parte vintage, diciamo, la base, la scrivania base dove sono le vintage, e già mi metto a operare su questo perché c'è da regolare lo smitter che è troppo basso, e poi vediamo altre cosettine, dai, qualche lampadinetta, così, niente di particolare. Avanti Marco. Ciao, ma non è quella base di cui ti ho mandato la foto quel giorno, no? Quella che, quella Intake famosa che ho avuto anch'io? 3104, sì, io ci metto poco a comprare, non è che sto lì a cicischiare, sì, quella lì, è nuova, mi è piaciuta, ce l'avevo e l'ho presa. Sì, guarda, se era quella che stava usando l'altra persona, lì con quel mic, con quella capsula che aveva messo lui non andava, non era pulita, non era assolutamente pulita. E qua ha migliorato tantissimo, e non so che mic le abbiate accoppiato, che impedenza abbia pure. Questo è il suo microfono originale, io l'ho procurato stamattina, originale, dentro la busta mai usato, questo era l'originale di Maestrale, di Salvatore Maestrale, che ce l'aveva su un Intake. Le radio sono andate a Roberto, poi a Roberto gli è rimasto il microfono, me l'ha dato stamattina, nuovo, suo originale, marcato Intake, col down e up nel microfono, suo originale, il suo, tutto il suo, nessuna connessione, innestato a 5, col connettore già testato a 5, il suo originale, come che la radio sia uscita originale, il suo. Ottimo, ottimo, quanti poli è quello? 5, 6, 4, quanto era? E 4 più il centrale, perché c'è il down e up, 5 punte. Adesso lunedì mattina compro uno spinotto a 5 con l'MB+5 nuovo da Fusaro, che già telefonato stamattina e ce l'ha, quindi me l'ha già messo da parte, e poi faccio la connessione a 5 e uso l'MB+5. Però come vedi nessun rumore di alternata, nulla, la radio non c'è niente, è un problema che sicuramente a lui lì in quel suo punto dove ci sono tutte le radio, gli alimentatori eccetera eccetera, uno vicino all'altro, prese tipo ciabatta, lampadine blu per fare, quella è tutta roba che non si mette quando usi, soprattutto queste radio vecchie, capito? Qua c'è un impianto particolare con tanto di salvavita, stabilizzatori di tensione, gli alimentatori non sono accesi, ci manda dove stai alimentando, e c'è un punto esatto dove ci sono gli alimentatori, a distanza degli alimentatori, a distanza dei microfoni. Cioè questa è una stanza adibita alla sala radio, che addirittura è staccata dall'alimentazione della casa, è un'alimentazione diretta che arriva direttamente dal contattore per questioni appunto di sicurezza, capito? Quindi sicuramente lì, come gli ho già spiegato, che arrivano tutti questi rientri, questi fischi, questi rumori di alternata, eccetera, capito? Tutto qua. Dunque, la radio a porto non c'è assolutamente niente, il microfono è normale, poi lo proveremo con l'MP25. A te Marco, fai girare. Sì, ripeto, ha una timbrica, diciamo, particolare quel microfono, no? Però rispetto a prima c'è un abisso. Io ho avuto quella stessa radio negli anni, fine anni 80, inizi 90, però l'avevo presa usata e aveva già un problemino, che riceveva saturo, era lo stesso 3104F, riceveva saturo e le altre persone, quindi c'era qualcosa nello stadio di ricezione che non andava bene. L'avevo tenuta, era rimasta nelle retrovie, e poi qualche anno fa l'avevo, mi pare, regalata a Pomponio, quello che credo di ricordare. Ho detto mettitela a posto, fai quello che devi fare, e mi pare che l'avevo fatta funzionare, riceveva bene anche ricezione, mi pare. Ok, vai Anto. Ma l'Intec sono sempre stati dei buoni apparecchi, la verità. Hanno sempre dato delle belle soddisfazioni, anche questo è un Intec e funziona che è una meraviglia, funziona. Io ho sempre trovato meglio delle altre radio, la verità. Anche Midland, però Intec nella normalità ha sempre avuto qualcosa in più. Per quanto li ho provati io, forse sono stato sfortunato che non ho provato altre radio, però cioè, l'unico che andava un po' forte in modalità era la 48, ma pigliavi i golpi che non ne comprendi più nulla. Non lo so, questo, la ricezione è favolosa con la sua colonnina, tutto a posto, sono Marco, non c'è nessun problema. Anzi, adesso ne approfitto e ti faccio sentire, giusto perché appunto ti ho detto che devo inserire l'MB5, non ti spaventare. Ti faccio sentire l'MB5 dello standard, no? Dell'altro base che ho sempre 23 canali, datato 1000, io non ero nato, cioè forse ero nato, cioè ero nato ma ero abbastanza piccolo, 1963. Ti faccio sentire il suo microfono con l'adattatore, però, perché quello è a 4, con l'adattatore da 4 a 5, ok? Poi mi direi se questa radio ha problemi, ok? Ti ripasso il cambio, prendo l'adattatore dal cassetto, ti inserisco l'MB+5, poi mi dici se va bene, riprendi e fai girare. Ehi, provo un po', dai, predisponi. Diciamo, come timbrica è vagamente un po' telefonica questa. Sai che mi sembrava appena entrato? Sembrava la voce di Luigi, di Gigi Vulcano. Sembravi lui. Vabbè, non è male. Tenendo conto che questo è un microfono normale, sto parlando a un palmo e più, quasi più di 10 cm dal microfono. Sono anche distanti adesso che sto cercando nel cassetto l'adattatore. Tieni conto che il suo microfono normale, Michigini al massimo, vedi tu. Adesso ti faccio sentire l'MP+5, poi mi dirai Claudio vai compralo e piazzaglielo. Non avevo dubbi, insomma. Ci sono delle cazzatine da fare, due lampadinette, una regolazione di Smith, basta. La radio è immacolata. Sono contentissimo di averla comprata. Aspetta che ti metto il microfono, riprendi e fai girare. Deia, fai pure. Sì, poi volevo aggiungere, per darti un'idea, rispetto a quella di Bombolo che è cristallina, no? Limpida. lì è un po' più telefonica, però è la timbrica della capsula quella, per il resto sembra andar bene. Adesso proviamo, sentiamo l'MB più 5, sicuramente migliora ulteriormente. Vabbè, questo è un altro tipo di radio, anche un altro tipo di capsula, cioè quella piccolina, cioè tutto particolare questo microfono. Ma quando l'avevo presa ero un po' scettico, ma poi ero contentissimo questa radio, non l'ho data più a nessuno, perché è una bomba. Infatti non conviene dare mai niente a nessuno. Questo è l'MB più 5, sempre con il 3104F. Mamma di turchi, io ho lasciato lo stesso volume, Claudio, è impressionante il volume che c'ha, e c'ha questa modulazione. A quant'è il mic? Il mic ce l'ho a 3, mic a 3, anzi a 4, e il tono è a 2, ma l'ho detto che non ce n'è per nessuno. Ha ragione Giulio Rovaro, io ho bisogno di trasmettere con un corno di bue e basta. Sì, allora è sparita anche quella timbrica un po' telefonica che aveva il mic originale. Adesso è più limpida e naturalmente ha molto l'effetto stanza, perché vabbè, lo fa con un'amplificazione del genere. Sicuramente c'ha il trimmer aperto con l'apparato dentro, perché è molto ma molto forte, molto. Anto? Sì, è una bomba. Vaga, una meraviglia, va. Sì, vabbè, c'è la porta chiusa, la stanza è molto più vuota, mancano due basi, ho fatto dei lavori, Marco, diversi, capito, cioè una base, quella base grande ci sono tutti in vintage, quindi no, non ha niente a che fare con la parte HF, V e U, sono separate, sono due basi separate, capito, due, ho un commutatore d'antenna che mi cambia da una scrivania all'altra, bellissimo lavoro, sono contentissimo, ma non ho niente in mezzo ai piedi, e le radio, i marachini così chiamati, vintage, radio, chiamateli come volete, sono da una parte, quando voglio parlare con quelle mi sposto, e dall'altra parte ho le radio per fare HF, le radio amatoriali, tutto qua. Ne sei convinto adesso di quello che io dico quando mi esprimo in certi QSO? Dipende sempre da chi, da dove sono messe le radio, da chi le usa, da come è fatto l'impianto, da tantissime cose, perché a volte ci fissiamo, ma il microfono non va bene, l'abbinamento non va bene, fischia, fa, tira, molla, qua non fischia niente, qua è tutto appositamente fatto per usare le radio in un certo sistema, in una certa maniera, e questo è un adattatore, non è, tra l'altro non è neanche l'adattatore suo, perché questo è dello standard, quindi va bene così. Allora, ti piace? Sì, se si può ridurre l'effetto stanza sarebbe meglio. Oh, naturalmente io faccio sempre il paragone col K, no? Cioè, la timbrica dell'MC60, il K con la tua voce non si batte, quello deve essere chiaro. Però all'anima si spinge, pure troppo spinge. Mi piacerebbe sentire la timbrica senza l'effetto stanza, solo la timbrica del mic, abbassando appena, vediamo cosa ne esce. Guarda, non c'è bisogno di cambiare nessuna timbrica, nessun abbassare volume, ho aperto la porta, ecco lì che l'effetto stanza va via. E ho abbassato il volume io un po', l'avevo alzato un po' di più. Sì, è forte, forte quella roba lì. E quindi buono, buono. Che altro dire? Sì, è migliore, cioè il mic originale, per quanto sia originale nuovo, è sempre un po' più telefonica come modulazione, non so come dire, capito? Qua già migliora. Riprendi Antonio, che prendo l'acqua. Capa, no, è una bombetta, va bene proprio. Una bella radio. Funziona benissimo. Eppure avrei voluto vedere com'è questo apparecchio. C'ho la curiosità, come si chiama? Aspetta, accendo la luce, ti faccio la foto e te la mando. È un Intec 3104F base. Non è grandissimo, però non ha una radio bellina, beh. Niente di che, è abbastanza semplice, ma è abbastanza... Va molto bene, diciamo. Aspetta, ti faccio la foto e te la mando. Intanto è sopra l'Inuit. L'altro giorno c'era un Galaxy, c'era vendendo. Non so se era Mondetta, non so, o se era buono. Se avrei avuto i soldi me l'avrei preso. 120 euro stava, prima è passato da 150, poi a 130 mi pare. Me l'avrei ripreso. E qua ci sta, qua sopra. Faccio un po' di spazio e ci sta là. Aspetto, facendo la foto. E K, dai. Fai. Un po' questo bel paracchino, oh, yeah. Un bicio e piglio un telefono. Sì, era una delle poche basi compatte, perché di solito le basi erano molto grandi, e questa c'ha l'alimentatore incorporato, l'altoparlante frontale, un bello Schmitter a ventaglio, vari led per le funzioni, Roger Beep, ecco, i tastini, no? Poi vabbè, Mike viene le fighe in delta tune, anche il delta tune, potenza regolabile, poi tastino FM, AM, poi TX, non so cosa sia, sarà TV, power. Ah, serviva avere una potenza fissa o regolabile tramite la il potenziometro, poi locale di X, tono, canale 9, scan, faceva anche la scansione dei canali, non ha manopola per i canali, cioè tastina up e down, anche sull'apparecchio stesso, capito Antonio? Capo, bello, questo qua ce l'aveva anche una persona, ce l'aveva, che gliel'avevo visto. Bello apparecchio! No, quello lì è, capito? È quello. Anzi, aspetta, abbassiamo leggermente. Ecco qua, lo mettiamo a 2, ecco. Adesso l'ho messo a 2 il Mickey Gain, Marco. Per me è meglio, sentiva anche un po' di ventolina, di fondo adesso è sparita, quasi sparita, dai. Sì, era una base carina, però io purtroppo avendo la presa usata, se avevo un difetto non molto evidente, ricevevi tutti saturi, leggermente saturi, quindi c'aveva lo stato di ricezione da mettere a posto. Poi non so se Pomponio l'abbia messa a posto quando gliel'avevo data, non me ne ricordo. Non lo so, io questa ce l'avevo lo stesso, però al finale bruciato, l'ho regalata a Gianni Capri, capito? C'era anche lui, però c'è al finale bruciato. Va bene, dai, sono qua un attimino, consentitemi che devo fare alcuni spostamenti, comunque vi sto ascoltando, così rimetto il microfono normale, questo lo rimetto dove era. Ok, avanti a tu. K è uguale quasi uguale al mio, solo che il mio è di concezione moderna. Quello lì è vecchio, cioè più vecchio degli anni 80, dai. Il microfono, si assomiglia molto. Quello è il suo microfono originale, col down e up e davanti, mentre gli altri ce l'hanno sopra, diciamo. Però il suo microfono originale dell'Intec, di questa radio, del 3104AF. Non F, questo è 3104AF. K. Il mio è uguale, solo che uno è molto più vecchio come, però la cosa, la cassa è quasi precisa, un pochettino. È quasi precisa, la cassa, solo che questo è preamplificato, cioè preamplificato con la radio, dai, diciamo, c'è un sistema diverso dentro. Vabbè, comunque l'importante è che ci sia il suo microfono originale, poi perché non c'era il microfono originale, capito? Questo c'ha un sacco di cosettine, il tono, c'ha il down up dalla radio, c'ha già la predisposizione. disposizione, ecco, col tastino si accende la luce, insomma, c'è il locale, il lock, c'è tante cose, dai. C'è tante cose belline, è piccolino, non è ingombrante, già va bene. Le prendi Marco, rimango un attimo in QRX, comunque sono qua nel canale 10, va bene? Sto vedendo già su internet dei cloni. Per il mercato tedesco era venduta con la marca Team Euro B3104F, sì, perché sicuramente avrà avuto più di un clone, sai, mercato tedesco, mercato polacco, eccetera. E quindi volendo si trovano anche di quella marca lì, purché i canali siano però gli stessi. Perché i tedeschi avevano quella canalizzazione strana, o comunque un watt solo in AM, quelli vecchi, no? Ce n'è addirittura uno simile, l'Euro 3100, che però c'ha una grande barra LED, come Smither. No, però no. Molto meglio lo Smither a ventaglio, lì non c'è paragone. Riprendi Antonio. Magari la magica è migliore. Però se me l'avevano dato già me l'avevi piazzato Roma a te, sì. Tu ne hai uno addirittura che non ne ha nemmeno. C'è questo casino. Ah, stanno facendo lavori qua. Senti un mezzo terremoto. Sì, quell'Intec M150 Smither non ne ha. Altoparlante frontale, tanto è concepito per usarlo in macchina. In macchina uno non è che deve stare a guardare Smither, deve guidare. Anzi, in realtà non si dovrebbe premere il microfono quando guidi nemmeno. Usare il mic come il cellulare. Vabbè, si sta prendendo molte cose. Oiuia. Vabbè, comunque, l'avevo già visto da un'altra persona, l'avevo già visto. Una volta sono andato a trovarlo e ce l'aveva. È un bel apparecchio. Vabbè, io all'epoca non ero molto entusiasta degli Intec, a me piacevano gli tipo Superstar, tutta quella serie lì, tipo questo, no? Non ero molto entusiasta degli Intec, a meno che non fosse, che ne so, il Tornado, quelli sempre con l'IPT 3600, tipo 3009 ma omologate, è presente, c'era nero, tipo lo Starship, quello che ha Pomponio, che se l'è truccato lui. Praticamente ha messo un 3009 con lo chassis dello Starship, capito? Quindi è come se fosse omologato. Antonello aveva fatto di peggio 30 anni fa, aveva fatto una targhetta di omologazione, mi pare sullo Yaesu 101D, no, FT7B, che è un HF, è un pazzo, però vabbè, già è bravo. Ma non l'ho più sentito, cavolo, che fine ha fatto? Allora, ieri ha fatto capolino in PMR, cioè a lui piace molto questo PMR, a me questo PMR, abbiamo fatto le prove, abbiamo sperimentato, però poi basta. E poi sai cos'è, sta uscendo, c'ha meno tempo libero per cose familiari, c'è una persona che non sta tanto bene, quindi si deve dedicare un po' più a quello, ecco. Me l'ha detto. Lo so, purtroppo sono rogne quando succedono queste cose qua. E cosa vuoi fare? Infatti, prima la famiglia, poi tutto il resto. Ci siamo passati un po' tutti. Purtroppo è così. E a voi ne ha due, non uno, due marate. Il fratello però, si è rovinato con le sue mani. Lo sappiamo, no? Purtroppo. Vabbè, non ne parliamo qua. Io già me l'ha detto pure lui, me l'ha detto. E purtroppo tutti i vizi fanno male, fumare troppo, bere troppo, tutto. Solo trombare, credo che quello almeno non faccia male, a meno che non ti becchi una malattia venerea, il colmo è. Lo so, ma tra fallo con la femmina d'uria, non si sa, altri gattati, non succede niente. Ma sai com'è, l'uomo è cacciatore, vuole andare come l'acqua, di fiore in fiore, così è. Ci sono anche donne mica vanno di fiore in fiore, chiamiamolo così. Sì, di incorra in corra. Vabbè, dipende dalla persona. Eia. Adesso io vado a tagliarmi i capelli, aspetto che rientri Claudio, se deve fare altre prove, poi piglio la macchinetta, mi metto anche il pettine più corto, mi faccio corti corti, tanto mi ne ho fatto assai. E che fai tutto bello? Tanto bello è una parola grossa, vabbè, però almeno i capelli sono corti, no, perché si stanno allungando troppo e sento toccando dietro proprio il malloppo mi di capelli, non mi piace. Con la macchinetta è comodo, non vado nemmeno al barbiere, gli dai due passate, belli, capelli corti, pari, poi tutti uguali. Io dal barbiere ben poche volte sono andato, perché comunque è una spesa che influisce, vabbè che ci vai una volta al mese al limite, ma anche io ci vado poco, me li porto in occhi, me li porto. L'ultima volta mi aveva fatto il baffo, adesso mi stanno tornando crescendo. Vai, no, la maga. No, vai, io tanto sono qua che sto cambiando la lampadina a questa radio, che le ho comprate, le voglio mettere perché ci deve illuminare tutto, non deve essere così. Ok, adesso sono qua io, vai. Finale. No, oh, la lampadina è normale, bianche, no, le voglio io di cagate, no. Le radio nascono con le sue lampadine, e allora la cosa che vedo qua, ecco qui, che c'è anche la scheda, ecco, già pronta, che però, eccolo qua, è disattivata. Dopo gliela attiviamo anche questa, è completo, Completo, sì, c'è la scheda, ecco, fa la scheda Colte, addirittura col trasformatore a parte, con trasformatorino a parte, è completa, forse lui non se ne è accorto, ma qua c'è la scheda Colte. Va bene, quindi adesso attiviamo anche quello, anche completo, figurati, ecco perché pesava un pochino. Sì, è nuova la radio, è nuova, c'ha una, due, tre lampadine bruciate e adesso le mettiamo a posto, va bene. Ma perché il cavo l'hanno staccata? Certo. Perché l'hanno staccata? Devo dirlo a chi l'ha fatta. Quando c'è vinto la scheda Conte, però non è attivata, adesso le salve due file della TV. Non l'avevo mai vista, la scheda piccolina, un po' più piccola di un pacchetto di sigarette, c'è anche il trasformatorino, piccolo. Hanno fatto un po' di. Hanno lasciato l'altoparlante senza fissare, hanno cattivo il carro. Di bianco, ci sentiamo tra un po', sono qua comunque, sono attivo qua su 10. Aspetta Claudio, fai nel frattempo, la passione è tua, amico. Stavi lì? Non parlano adesso, so, quelli è un piccoglione di bambini. Un casino, si offendi. Adesso gli dico di trasferirsi sul canale 7 PMR in pianta stabile. E diglielo, ma no, io non sto entrando più in PMR, quasi, diciamo, quasi niente, addirittura l'avevo anche attaccato, la verità, l'avevo attaccato, poi scoccio le UHF che mi interessano, allora ho rimesso, però l'avevo anche staccato, figurati, no, agitavo i vicinetti, no, lascio perdere, se capita ce l'ho lì, se qualcuno mi dice fai qualche prova la faccio, ma no, non è che ci faccio molti questi, ho capito, ma... Arrivano forti e io adesso non so, perché io mi ricordo che come arrivavano da te arrivano anche qua, quindi forse non è nemmeno roba omologata, erano forti questi. Fa viene un casino, mamma mia. No, no, già stanno bene dove stanno. Adesso sono al canale 6, canale 6. Qua ti volevo chiedere, no, chiedere niente, fai comunque, dai. Tanto quasi quasi io, finché che poi devo cucinare o fare un bel di roba, mi vado e mi faccio i capelli, anche la barba. Barba e capelli, vado a depilarmi del tutto, dai. Okay, vai, vai. Oh. Va. Oh Marco, vai, vai. Ok, claro, io ti lascio fare, dai. Se no non riesci a bucarne bene. Sì, Anto, perdonami che devo aprire già tutto il frontalino, capito? Perché c'è tutto stampato lì davanti. Devo attaccare un paio di fili, segnarmeli, mi ho già fatto le foto. E poi devo riattaccarlo, perciò sia che sbaglio. Già sono quanto? Il tempo di sistemare questa cosa, poi ti richiamo, ok? Vai, fatti il bello, Marco, guardi, sono ancora. Per farmi bello mi devo fare la plastica facciale, Claudio. Adesso vado a depilarmi, anche la ceretta mi faccio. Non sarà così feo, no? E dipende dai gusti, boh. Io avrei voluto essere come George Clooney, invece sono diverso. Pazienza. Invece è paragnotta, cosa che ha George Clooney. Perché anche George Clooney è omosessuale? Non credo, no? Tutti metri froci, zombie. E io invece voglio essere Antonio e andare a forte. E sai cos'è lì a Hollywood, tutti quegli attori, e lì è tutto, non è che sono omosessuali, è tutto un buco, è un buco, mi sono bisessuali, trisessuali, quello che capita sotto, si accontentano di tutto lì, droga, sesso, rock and roll. Ti fate un trenino, guardene. E infatti gli attori spesso, non tutti, ma molti cominciano a uscire fuori dai binari, cominciano con droghe, alcol, quello si dice che Johnny Depp picchiasse la compagna, lui nega tutto, e vuoi scoprire dove è la verità. Purtroppo quando, anche quando c'è troppo benessere, no? Quando i soldi sono troppi, lì anziché fare una vita normale e sana, fanno tutto l'opposto, capito? Peggio per loro, attori, cantanti, belli cantanti, donne, uomini morti di tipo overdose, roba del genere, Whitney Houston per esempio, mi pare anche la figlia, peccato, peccato. Va bene, signori, a dopo, se è il caso, dai, perché poi devo mettere mano a pentola e oggi devo fare tutto io. Se non ci sentiamo ritenetevi salutati, quindi ciao Antonio, buona serata, ciao Claudio, buona serata, fai tutto con calma e con cura, ok? Ci sentiamo le prossime, ciao a tutti, ciao. Ciao Marco, lì a dopo se coincide, vai, ciao ciao. Ciao Marco, dai, ciao ciao, io vado a fare un'altra cosa, ciao ciao. Qualche altra regolazione da fare, forse. prova radio, prova un po' a vedere. Dovrebbe andare bene così. Siamo tutti con picchi negativi, può darsi che sia una caratteristica di quello smitter, una cosa, diciamo, un punto a sfavore dello smitter. Ne ho visti che davano a tutti picchi negativi, parlo di apparecchi di 30 anni fa, tipo, adesso non mi ricordo i nomi, mi è capitato con alcuni apparecchi. Vabbè, non dico in trasmissione, tutto a posto, un lampadinato, tutto fatto. Tutto fatto, Marco. Lascia la portante solo un attimo, che ho visto una cosa. Ecco, vedi un po'. Mi sembra che la 9.30 il tuo segnale, non me lo ricordo. Dunque, al K... Sì, da liscio, conta che sono quindi 4 watt filtro, quindi 3 watt utili, solite condizioni di lavoro, dai. E dovrebbe essere intorno a 9.30 al K, quindi lo vuoi tarare uguale quello? Sì, uguale, però cazzo, sto lavorando senza il cacciavite induttivo, aspetta mi prendo il cacciavite induttivo perché ci sono dei trimerini molto delicati. No, ho il manual service computer aperto, quindi non è che posso sbagliare, mira quello sto facendo. Sì, la lampadina gliel'ho già messa e sto a posto. Certo, il massimo sarebbe avere l'iniettore di segnali per tarare lo smitter, ma averlo ma sai cos'è? Quella è tutta roba da laboratorio, che poi perché iniettore di segnale? Schiaccia generatore di segnale, vabbè. L'ho visto qualche CB polacco che ti fa le revisioni dei baracchini, no, ti fa i video su YouTube, ma è roba anche un po' impegnativa anche nell'uso, vabbè. Io con questo mi ero, col K mi ero basato il 9, gliel'avevo messo uguale al K, poi che mi falsi i segnali bassi, gli alti, pazienza. Mi hanno fatto un po' la corrispondenza, la scritta, proprio questi smitter qua di 3009 non sono fatti niente bene. Bene, allora, fase capelli fatta, adesso vado a fare fase barba. Ci sentiamo, forse, no, dopo devo cucinare, ci sentiamo quando capita. Ciao Claudio, ciao. Sì, Marco, dai, tanto io vado, continuo a lavorare su questa radio. Va bene, va bene. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cazzo, ma così mi sembra più forte la modulazione che così, guarda. Come mai cambia? Allora, così, questo è un passaggio, 1, 2, 3, 4, poi ti lascio, mentre questo invece è un altro passaggio. Vedi un pochino, 1, 2, 3, 4, sempre col microfono normale. Cazzo. Cambia. Così sei 9 più 15, però la modulazione più, prima di tutto più limpida e più forte. L'altro passaggio è 9 più 20, però li va proprio a chiudere la... No, leggermente la modulazione, però si sente la differenza. Quando mi fai il passaggio da uno all'altro, si sente come? Qui anche Antonio l'ha notato. Allora, questo è il Dix Power, sempre col microfono normale, questo microfono normale, Dix Power inserito, ecco qua, Dix Power disinserito, ok? Sì, così sei molto più forte il segnale. Ma una curiosità, ma lì gli hanno tirato i watt, non si sa, oppure sono 4 massimi? Non lo so, allora così, vediamo un pochino, ecco così, non è attaccato di niente, allora così il Dix Power, ecco qua, così c'è il Dix Power inserito, e la modulazione è molto, molto più bella rispetto a fetta, ecco così invece è abbassato il Dix Power, quindi così abbassa la potenza e così la tira su, eccola qua. No, l'ho tirata a 10 watt, era 3 watt e mezzo, l'ho portata a 10 watt, così sono 10 watt, 1, 2, 3, 4, 10 watt, mentre invece così, perché regola la potenza, sono 3 watt, se lo faccio al contrario, 3 watt, 10 watt. Sì, influisce sulla modulazione. Quando sei con i watt bassi, tipo 3-4, è un bijou. Quando lo metti a 10, probabilmente il finale è molto risicato, non ce la fa tanto. Però ancora va. Sì, quella radio doveva essere in pari 4 massimo. Sai come funziona il Dix Power? Lì c'hai sia la manopola che il tastino. Allora, col tastino puoi scegliere se attivare la manopola, praticamente, regolare con la manopola. E se no c'è la posizione fissa. Vabbè, mi sono spiegato male, ma si capisce, no? Cioè il tastino serve ad abilitare la manopola. Esatto, il tastino serve ad abilitare la manopola, perché questo, ad esempio, quando io metto lock Dix, cosa vuol dire questo lock Dix, se tu te lo ricordi, io non ce l'ho sul manuale. Locale DX, cioè un RF gain, DX sarebbe la funzione normale, e locale attenua i segnali, se tu lo premi sicuramente attenuerà di vari Santiago, provalo un po'. Non attenua un cacchio. No, ma aspetta, ma tu c'hai anche l'RF gain, se tu metti locale e giri l'RF gain intorno, anche lì credo che sia lo stesso, serve ad abilitare o meno la manopola dell'RF gain, così credo di ricordare. Sì, esatto, ecco qua, sì. Esatto, se è tutto praticamente a manopola, già va bene, mentre questo tono invece è solo ricezione. Sì, il tono è ricezione, provalo un po', 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Sì, va bene, bella, già va bene. Infatti Claudio, sai cosa facevo io? Cioè, direttamente, mettevo le repetizioni al minimo, la potenza al minimo, e poi abilitavo dal tastino, cioè o mettevo potenza minima e massima da tastino o anche il segnale locale di X direttamente toccando il tasto, capito? Vabbè, sì, più o meno. Lo sai, il power con il power abbassato. Gli attacchi 747, lo ecco, gli ho saldato i fili ma non funziona. Ora. Non va. Evidentemente c'è qualche altro problema. Vabbè. scappa di Rogero, va bene, ho attivato qua il baravan e allora mi sa che la radio è terminata, più di questo non si può fare, questo è il microfono normale e dovrebbe essere un bijou, mi sto ascoltando in cuffia, dovrebbe essere a posto, no? Sì, sì, sì, quello con la potenza alta più di tanto non si può ottenere, ma va già bene così, insomma. Poi che piaccia o meno la timbrica, quello è un altro discorso. Cosa ti volevo dire? Ma lì la scheda eco c'è? C'è internamente, c'è la scheda eco, sì, perché che io ricordi era opzionale, però quello dico, quello nego. Cioè ti vendevano l'apparecchio e l'Intec ti metteva a disposizione la schedina eco se la volevi, andava inserita e collegata, tutto lì. No, c'è Marco, c'è attaccata sul lato, ci sono anche i fili già collegati, ma non capisco perché non funzioni. Sto controllando se c'è qualche altra stronzata attaccata, le spinette sono attaccate. 1, 2, 3 e 4, sono tutte attaccate, boh, non capisco. Vabbè, ma è una cosa che non mi interessa, ma ecco, però la scheda c'è. Cioè, se vuoi ti mando anche la foto, tu che l'hai avuta, sta radio, la scheda c'è. Però non sta funzionando, nonostante gliel'abbia attivata, non sta funzionando, capito? Va bene, dai, vai, fatti la barba, già sono qua io, ok, che la chiudo, tanto non faccio più niente adesso. E adesso rilancio Antonio. Claudio, una sola cosa ti volevo dire, siccome lì da affrontare puoi attivare l'eco, lo puoi inserire o disinserire, non è che la scheda ha delle regolazioni tramite trimmer che potrebbe essere a zero proprio il volume eco? Non è vero trimmer, Marco, non vedo nessun trimmer qua. Ora 1, 2, 3, prova, eccolo qua, l'ho rimesso, è in potenza bassa, ecco, l'ho messo potenza bassa, dai, la teniamo a 5 watt, già va bene, anziché 10. Non vedo nessun trimmer qua, Marco, non sto guardando, è tutta bella compatta, ci sono due trimmerine sotto, però non vedo che non arrivano. C'è la 220, non posso mettere le mani, dai. Sì, ci sono dei fili che partono dalla scheda, c'è un giallo verde che va all'interruttore dell'eco, che io adesso vedi vado a inserire, però non fa assolutamente niente. Questo è inserito e così è disinserito, vedi? Inserito e disinserito, RB e non c'entra niente, questo qua. Quindi ci sono due fili che vanno all'interruttore e va bene, poi ce ne sono altre 1, 2, 3, 4, 5 che vanno a due resistenze variabili e altre due vanno sul circuito stampato di sotto dell'alimentazione del trasformatorino piccolino, capito? Quindi molto probabilmente lì c'è da toccare, ma non tocco niente perché non c'ho visivo il manuale di questa scheda, ecco, sto solo andando a lavorare, anzi diciamo che ho già fatto sul manuale che mi dà il computer e basta. Il service manual, sentito sotto un segnalino, io adesso chiudo, rilancio Antonio, così mando avanti chi vuole entrare. Ciao a tutti, ciao. Ciao Marco, grazie dell'info, dai. Ok, Anto, riprendi, fai entrare chi è che vuole entrare, non lo so. Stavo dicendo, quello lì se gli abbassi i watt, gli attacchi 747, gli esce una bomba, esce. Avanti, chi voleva entrare? Ascolta, ma tu sei agganciato adesso? Assolutamente no. Non sei agganciato, lascia la portante. No, lascia la portante, te lo dico io quando toglierla. Porca puttana, non ci riesco, aspetta un attimo. Allora, questo era così. Aspetto, rimetti la portante ma non parlare. Oh, no. parecchio. Sì, sul più del 9 più 20, sì, come quello, come l'altro baracchino, beh, già va bene. Vabbè, non sono agganciato, sono normale. Ho 12 watt, 16, 12 watt, non di più. No, già va bene, tu vai. Ottimo per la truppa, io esco. Bevo. Questo l'ho toccato. Aspetta un attimo. Non mi ricordo come cazzo era questo. Forse era così. Eccolo qua, fammi vedere il manual service. Eccolo qua, la posizione è questa. E va bene, dai. Va bene, va bene. K di Roggero. K, meno. Non ho giocato a Candy perché tanto basta con pochi watt, perché tanto no, non c'è nessuno là fuori, quindi cosa attacca a fare? A Candy mi rimane. Ehi, ma infatti lascia stare tutto così, già va bene. Gappa. Va bene. Comunque la modulazione è ottima, quindi non c'è problema. Tune, questo è tutto aperto, mic gain, volume, eccetera, eccetera. Va bene, dai. La modulazione è abbastanza accettabile comunque. Buonasera. Buonasera, Carlì, chi è? Sono nuovo, sto provando questo nuovo baracchino per vedere se va. Già va, vittoria mia, anch'io ne ho uno aperto qua, stavo facendo due regolazioni. Va, 920 radio 5, visto? KK, adesso ho messo a 5 watt, prima era non so quanto tira, potenza AI, adesso è low, adesso dovrebbe essere 5 watt, credo. Sicuramente, anche questo sta andando a 5 watt così, 5 watt, no, adesso sta andando a 10 watt, mentre invece così sta andando, ecco qua, vedi che cambia anche la modulazione, così invece sta andando a 5 watt. Avanti, Antonio, per i saluti a Vittorio. Appa, salutone Vittorio, salutone, qua c'è la fondoscala, Vittorio. Bene, no, volevo sentire la modulazione, che me l'hanno dato, mi hanno detto, dice che trovo il baracchino che non esce di modulazione, ma ho provato su carico fittizio, laboratorio, e sembrava tutto a posto, adesso lo lascio attaccato qui, non so se lo faccio a caldo, ossia il microfono, insomma. In quella mezz'ora ho provato su carico fittizio, ma va bene. Adesso invece facciamo la prova, come lo usa lui, lo uso io, e così vediamo, non sia che ci sia qualche falso contatto. Ma infatti bisogna vedere sempre come la situazione, Vittu. Bisogna vedere sempre come la situation, perché a volte magari, capito,